Pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giambonino, una nuova poesia della poetessa Angiola Bottero Bodrero, dal titolo Tempesta. Ogni fiore che cade, un frutto che muore, ogni chicco di grandine, una lacrima del contadino. Ogni diritto è riservato all'autore.